Salva Danaio. Le 12:15 minuti, buongiorno e bentrovati a Salva Danaio da Roberta Pellegatta. Oggi, come dicevamo durante il giornale radio, abbiamo l'ambizione di rivolgerci a 43 milioni di persone, tanti sono coloro che abitano in Italia in condominio e per i quali sta per scattare quello che qualcuno ha definito una rivoluzione. Senza esagerare, è meglio tenersi al termine riforma del condominio, che come avrete letto sui giornali è stata approvata dal Senato a fine gennaio e che ora attende il sì della Camera. Era attesa da tempo e va a svecchiare norme che ormai risalgono al 1942 e prevede novità importanti che riguardano le maggioranze e la figura dell'amministratore che vedremo nel dettaglio rispondendo alle vostre domande in diretta. Avevo un po' di nostalgia di due ospiti storici di Casa e Famiglia, programma che gli ascoltatori fedeli di Radio 24 ricorderanno e che oggi sono con noi. In studio c'è l'avvocato Augusto Cirla, segretario nazionale di Assocond Conafi, ben trovato. Buongiorno, buongiorno. L'Associazione Nazionale Condomini e in linea c'è l'avvocato Eugenio Correale, capo ufficio studi della NACI, buongiorno anche a lei. Buongiorno dottoressa. Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari, e avremo in linea con ogni probabilità più tardi anche un rappresentante della NAPI, quindi abbiamo insomma rappresentanti degli amministratori, rappresentante del condominio, potete sbizzarrirvi con le vostre domande, quando ci occupiamo di questo argomento arrivano sempre numerose, prenotandovi al nostro numero gratuito 800 24 00 24 oppure mandando un messaggio al 349 238 6666. Prima, come di consueto, di nuovo uno sguardo veloce alla borsa. Parigi sta perdendo l'1%, il Dow Jones guadagna lo 0,02%, Francoforte guadagna lo 0,02%, Londra perde lo 0,33%, negativo anche il FTSE MIB a Piazza Affari meno 0,30%, il FTSE Share meno 0,31%, bene BCA in questo momento più 1,59%, poi Fondiaria Sai più 1,44%, TOZ anche più 1,44%, vediamo il titolo peggiore in questo momento Piazza Affari, Exor meno 2,63%, poi l'automatica meno 1,68%. Torniamo adesso a bomba al nostro argomento, al tema di oggi, la riforma del condominio. Ecco innanzitutto cosa cambierà se arriverà anche il sì della Camera. Assemblee, regolamenti, amministratori, si cambia. La riforma sui condomini, approvata in Senato, costituirà la grossa novità per tutti i proprietari e gli inquilini. Stiamo parlando di circa 43 milioni di italiani, che ora attendono il sì della Camera per vedere rivoluzionate le regole che scandiscono la vita tra le varie scale dei palazzi cittadini. Cosa cambierà? Innanzitutto, si potrà procedere a cessione e divisione delle parti comuni, con la maggioranza dei due terzi dei millesimi e non più all'unanimità. I lavori nelle singole unità immobiliari che nuociono alle parti comuni sono tassativamente vietati. Per i condomini c'è la possibilità di staccarsi dall'impianto di riscaldamento centralizzato partecipando solo alle spese straordinarie e di manutenzione. Cambia anche il ruolo dell'amministratore di condominio, il cui mandato diventa biennale. All'amministratore, inoltre, sono affidati maggiori poteri e responsabilità e allo stesso tempo è chiesta maggiore trasparenza sull'operato, che potrà essere controllato meglio grazie al registro degli amministratori presso le Camere di Commercio. Lo stesso amministratore ha poi l'obbligo di agire immediatamente sugli inquilini morosi trascorsi 4 mesi dalla scadenza non rispettata. In caso di ritardo, sarà l'amministratore stesso a rispondere dei danni. Questo per quanto riguarda le principali novità. 800 24 00 24 per le telefonate, per i messaggi 349 238 6666. Allora, avvocato Cirla, innanzitutto, in che modo questa riforma va a vantaggio dei condomini? Io credo che sia una riforma tutto sommato positiva. Nonostante abbia sentito pareri contrari, pareri discordi, io ritengo che per quanto riguarda i condomini sicuramente dei passi avanti siano stati fatti, in particolar modo alla proprio ormai previsione stabilita che di possibilità che ha il condomino di controllare l'amministratore, valga una per tutte, la possibilità di andare a vedere i documenti condominiali che prima era così disciplinato, previsto dalle varie sentenze che si erano pronunciate, mentre questa riforma lo mette addirittura tra uno degli obblighi dell'amministratore. anche il conto corrente, insomma la contabilità del condominio, che deve essere più trasparente, più rigorosa anche rispetto a quello che era prima, proprio del conto di entrate e uscite. Quindi una riforma che detta anche norme in questo campo, come devono essere fatti i conti. E questo è importante, perché devo essere onesto, noi abbiamo sempre sostenuto che prima ancora di fare le regole per gli amministratori bisognerebbe fare le regole per amministrare il condominio, no? È questo che interessa al condomino. E anche in tema, per esempio, di sicurezza, questo diritto che ha l'amministratore di accertarsi anche sulle proprietà, entrare nelle proprietà individuali per accertarsi se ci sono pericoli o meno. È vero che è stata data la possibilità, è prevista la possibilità anche per un singolo condomino, ma il legislatore, tutt'altro che ottuso nella visione della vita di condominio, cosa prevede? È vero che il singolo condomino può sollecitare l'amministratore affinché questo intervenga, entri nella casa del vicino magari per controllare, ma attenzione, perché gli mette poi, nel caso che tutto sia regolare, una sanzione pesantissima, che è pari al 50% delle spese condominiali che paga il condomino che è stato illegittimamente disturbato. Quindi sostanzialmente una riforma che, sebbene necessiti ovviamente di ritocchi, di interventi, di modifiche e magari di aggiunte, perché no, e che siamo certi che quando varcherà le soglie della Camera ci sarà, a mio parere, accesa discussione su questi punti da aggiungere, però nell'insieme io la vedo positiva. Manca qualcosa, ma non è detto che la Camera, poi siamo convinti che la Camera ci entri. Poi parleremo anche di questo, delle eventuali migliorie che si potranno apportare. Come diceva in apertura, non ha trovato tutti concordi questa riforma dei condomini, anzi ha suscitato molte critiche, tra l'altro in diverse associazioni di amministratori, non così la NACI, che rappresenta l'avvocato Correale. Voi cosa pensate di questa riforma? Pensiamo che sia un grosso passo avanti sotto molti aspetti, è una modernizzazione, sicuramente una modernizzazione, dopodiché vi sono certamente degli aspetti discutibili. In generale la riforma è molto articolata, è molto complessa, comporterà un appesantimento di tutte le regole che riguardano il condominio, e questo è un aspetto negativo, tant'è vero che anche noi condividiamo l'aspettativa che la Camera intervenga e modifichi in qualche modo almeno le parti più, come dire, più pesanti, più complicate della nuova normativa. Per esempio? Quello che ha detto il collega Cirla poco fa a proposito dell'intervento del singolo condomino è davvero faraginoso, ma addirittura c'è una norma che prevede che se il condomino chiede di intervenire, vi è una delibera e l'amministratore non vi provvede, poi l'amministratore, il condomino, possa eseguire direttamente degli interventi. Ecco, ci sono degli aspetti che sono certamente, come dire, debordanti. Comunque nel complesso noi plaudiamo ad una riforma che prevede per esempio il registro degli amministratori, quindi finalmente a tutela del professionista, ma anche a tutela del condomino, chi svolge la qualità di amministratore deve risultare in un certo elenco. Purtroppo non è stato previsto un titolo di studio, l'avvocato Cirla diceva bisogna insegnare ad amministrare, però purtroppo il legislatore questo non l'ha concepito, ma quantomeno ha previsto che chi fa l'amministratore deve essere iscritto in un registro e deve curare l'iscrizione dando dei dati che sono il minimo, ma comunque garantendo un minimo di trasparenza. E cosa pensa di questa polizza assicurativa che dovrebbe stipulare l'amministratore a garanzia del suo lavoro e del suo operato? Tendenzialmente siamo decisamente favorevoli a che, come in tutte le professioni, ci sia trasparenza e garanzia per l'utente. La modalità prevista, quella della polizza assicurativa, rischia di essere, come dire, molto pesante per un primo tempo per gli amministratori, perché è evidente che ogni nuova normativa va prima a colpire il professionista, ma poi tutti i costi si scaricheranno fatalmente sull'utente, quindi potrà comportare un grosso aumento dei costi di gestione. Forse è meglio prevedere delle forme diverse, che possono essere un fondo di garanzia, ad esempio un fondo di garanzia che sia disciplinato dalle associazioni. È evidente che i costi diminuiscono, perché non si tratta più di garantire il singolo amministratore per il singolo condominio, ma si tratterebbe di garantire il partecipante ad una categoria di professionisti, o meno molti partecipanti ad essi. Faccio un esempio: Anaci ha 8.000 iscritti, un fondo di garanzia che copre 8.000 iscritti certamente comporta dei costi molto inferiori rispetto ad una polizza d'assicurazione stipulata per un solo condominio. Quindi meglio un fondo di garanzia di questa polizza, anche per lei, avvocato Cirla, anche perché poi come sarebbe questa polizza? Cioè un amministratore stipula una polizza a garanzia del suo lavoro? Ma, cioè nel caso copra... Guardi, si era discusso di questa polizza più di una volta. Io condivido il fatto che l'amministratore, ma come ogni professionista, abbia la sua polizza per eventuali errori che commette, ma non è questo l'obiettivo che si era prefisso la riforma. Noi lo sappiamo, lo tocchiamo con mano, non dico giornalmente ma quasi, il fenomeno della fuga dell'amministratore. Parlo sempre dell'amministratore chiaramente neanche di serie B, di serie Z. Ecco, la polizza no. Copre la fuga? Assolutamente no, assolutamente no. È come se il ladro assicurasse il derubato dicendo: non ti preoccupare, ti rubo il fondo, tanto tu sei assicurato. No, sono assicurato, quindi l'assicurazione ti rimborserà il furto che ho fatto. Assolutamente non serve a questo. Ecco perché noi insistiamo, come diceva il collega Correale, sul fondo di garanzia, un fondo di garanzia che chiaramente alimentano gli amministratori. Ovvio che ricade poi sul condomino, è una percentuale, noi proponiamo, del suo emolumento, dell'emolumento dell'amministratore, che va in un fondo a garanzia proprio di questi ammanchi, questi danni che vengono provocati al condomino, con sanzioni collegandoci proprio all'iscrizione, meno male, in quel registro, e quindi con la cancellazione, con l'inibizione all'amministratore di svolgere altre attività. Ovviamente quelle penali. Abbiamo già due domande all'800 24 0024, Elena e Graziella. Cominciamo sentendo Elena da Vicenza. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Dunque, il mio quesito è questo, un po' individualista a dire il vero, però insomma è stimolato da questa novità. Io ho un appartamento al 7° piano, soprastante il mio appartamento c'è l'ex, un locale, un ambiente che precedentemente ospitava i cassoni dell'acqua che andavano a alimentare i vari appartamenti. Sì. Ora, essendo stato modificato il sistema di alimentazione attraverso l'acqua diretta, i cassoni sono stati tolti e l'ambiente è adibito a sala di riunione per le assemblee. Allora, io avevo fatto già anni fa la domanda al condominio di acquistare questo ambiente che ricopre una stanza e mezza del mio appartamento, appunto all'ultimo piano. Sì, è chiarissimo. Ma all'epoca mi era stato detto no, perché non tutti quanti sarebbero stati d'accordo. Adesso con la nuova legge le maggioranze dovrebbero essere più basse, quindi lei vorrebbe sapere se sarebbe facilitata in questo acquisto, giusto? Certo, io vorrei appunto poter acquistare e anche orientarmi un po' su che proposta economica fare, diciamo, su un ambiente di 30 metri quadri. Beh, sulla proposta economica adesso insomma usciamo un po' dal discorso. Comunque la ringrazio per questa domanda, perché tra le novità previste dalla riforma del condominio c'è questa possibilità, no, di deliberare, di alienare, di modificare, di vendere spazi comuni con una maggioranza più bassa rispetto a prima, avvocato Cirla. Certamente, con una norma sempre prevista nel disegno, perché chiariamo che non è ancora passato nulla, quindi le regole del condominio sono ferme ancora, no? Una norma che sinceramente non è il massimo della chiarezza, perché la norma parla di sostituzione delle parti comuni, quindi non è espressamente di alienazione delle parti comuni, però poi dopo sarà ovviamente oggetto di interpretazione da parte di chi ci scrive in materia di condominio e quant'altro. Però ecco, diciamo che sembrerebbe che la vendita dei beni comuni avvenga non più con l'unanimità, ma con i due terzi dei millesimi e la maggioranza degli intervenuti. Sottolineo la maggioranza degli intervenuti perché è una ricorrente nella riforma, non parla più di maggioranza di partecipanti al condominio, ma degli intervenuti in assemblea, quindi facilita la formazione della volontà del condominio, perché tutti sappiamo che insomma le assemblee spesso vanno deserte. Quindi questa norma interviene a migliorare la possibilità di vendere il bene comune. Va bene, ci fermiamo, pubblicità, meteo, poi torniamo con Salvadanaio, 800 24 00 24. Ben ritrovati a Salvadanaio. Di condominio ci stiamo occupando oggi, in particolare della riforma approvata dal Senato che ora attende il sì della Camera. Una riforma che prevede più poteri e responsabilità per l'amministratore, che dovrà iscriversi ad un registro della Camera di Commercio, indire un'assemblea se richiesto da un condomino, stipulare una polizza assicurativa, ispezionare gli appartamenti se motivi di sicurezza lo richiederanno. Poi, come abbiamo detto, i condomini potranno deliberare di vendere spazi comuni con una maggioranza più bassa e potranno staccarsi dall'impianto centralizzato pagando solo le spese straordinarie di manutenzione. Questo naturalmente in estrema sintesi. Se volete riascoltare con calma, fatelo al nostro sito radio24.it cliccando su Salvadanaio. Naturalmente stiamo parlando delle novità introdotte dalla riforma approvata dal Senato, poi vedremo invece cosa uscirà dalla Camera. Una riforma, questa del condominio, attesa da tempo, che non trova però tutti concordi. La boccia Confedilizia, che ritiene provocherà nuovi contenziosi per gli amministratori e maggiori costi per i condomini, e una riforma che vede contraria anche diverse associazioni di amministratori, tra cui la NAPI, che è l'Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili, e abbiamo in linea il presidente, che è Vittorio Fusco. Ben trovato. Buongiorno. Buongiorno. Lei ha insistito per essere nostro ospite oggi. Evidentemente, insomma, ritiene di avere cose da dire oltre a quelle che abbiamo già detto oggi in trasmissione. Beh, guardi, noi francamente ci siamo soffermati un attimino per quanto riguarda la nomina dell'amministratore di condominio. In sostanza, sulla riforma non si parla di altro rispetto a quello che già c'era in termini di garanzie da parte dell'amministratore, ma soprattutto di professionalità, o comunque di vedere un attimino, insomma, la figura dell'amministratore con una professionalità piuttosto ampia, considerando gli aspetti e la responsabilità che colui ha, insomma, in tutti i sensi nell'ambito condominiale. Soprattutto per quanto riguarda le varie responsabilità in termini fiscali, per quanto riguarda le responsabilità in termini di impianti e quant'altro riguarda appunto le attività a lui correlate. Quindi sostanzialmente non c'è nulla che possa in qualche modo determinare effettivamente se magari debba avere comunque un titolo di studio o comunque debba esattamente riguardarsi su altre tematiche e tutto il resto, quindi sostanzialmente rimane fermo un po' a, cioè, è una riforma insufficiente a suo parere, inutile nell'ambito professionale dell'attività stessa, perché in effetti, insomma, bisognerebbe cercare di dare un quadro un attimino più ampio e assolutamente più professionale, considerando le responsabilità che, come dicevo, sono assolutamente importanti. C'è qualcosa che salva della riforma o no? Beh, sicuramente in ambito condominiale sì, insomma, considerando anche la vendita delle parti comuni, l'alienazione delle parti comuni, che come prima diceva l'avvocato Cirlo, insomma, sono assolutamente importanti, considerando anche il discorso delle vendite, insomma, quindi chiaramente avendo anche una proiezione più ampia. Però è insufficiente per quanto riguarda la figura dell'amministratore, ma in fondo anche l'avvocato Correale lo diceva poco fa, servirebbero altre cose, per esempio una qualificazione della figura professionale dell'amministratore. Un messaggio arrivato al 349-238-6666 dice: siamo 12 famiglie e ci amministriamo da soli, siamo in regola. Avvocato Correale, si può fare a meno dell'amministratore? No, perché è obbligatorio l'amministratore quando i condomini sono più di quattro. Poco fa si parlava della figura professionale dell'amministratore. Effettivamente il nostro legislatore, il nostro futuro legislatore, ha lasciato un po' le cose incompiute. Probabilmente sarebbe bastato guardare a quello che accade per i mediatori immobiliari, per i quali è previsto l'iscrizione alla Camera di Commercio, però sono previsti anche dei corsi e degli esami, per capire che anche nel mondo del condominio si sarebbe potuto fare il passo completo. Bene, chi si lamenta perché il passo non è stato fatto del tutto, almeno può comunque registrare che un progresso c'è stato. Parliamo anche di durata, la durata dell'incarico è ben più ampia che in passato. Oggi l'amministratore è destinato a durare 2 anni, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, e questo a garanzia anche dei condomini, perché per i primi mesi l'amministratore dovrà impostare la gestione, curare l'anagrafica, insomma occorre un po' di tempo, e la durata di prima, appena 1 anno, era effettivamente insufficiente. Sentiamo Graziella da Padova, l'800 24 00 24, ancora non avevo ricordato il numero in questa seconda parte. Graziella, buongiorno. Buongiorno, io vorrei approfittare della presenza di questi esperti qualificati per porre un quesito. Io abito in un condominio di 4 piani più un piano rialzato con 2 scale, 2 ingressi, senza ascensore. Alcuni condomini dei piani alti chiedono di poter installare degli ascensori, quindi sarebbero 2 esterni, riducendo quindi lo spazio del cortile comune e riducendo i posti auto, essendo in centro storico un problema rilevante. Allora vorrei sapere, ora ed eventualmente con la riforma, se questo è possibile, con quali maggioranze, se si può richiamare la legge sulla disabilità. Va bene, grazie alla nostra ascoltatrice da Padova, avvocato Cirla. Certamente sì, nel senso che c'è tutta la normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche che, seppur non parlandone direttamente, perché parla di servoscala, comunque ormai si è consolidato anche il principio che è possibile estendere anche agli ascensori, certo che può essere fatto. Teniamo presente che questa normativa, quindi la necessità di installare l'ascensore nei condomini, addirittura va a forzare, diciamo, il concetto di decoro, di uso delle parti comuni, perché ormai è fermo il principio per cui le parti comuni possono essere sacrificate in favore di un servizio che è considerato proprio un diritto all'abitare. Oggi un immobile senza ascensore crea sicuramente dei problemi alle persone anziane e quindi non solo alle persone portatrici di handicap. Quindi ben può essere installato l'ascensore, seppur ovviamente con tutte quelle precauzioni e nel limite del rispetto di non dare troppo intralcio alle parti comuni, benché possono essere sacrificate. E la norma, la riforma ne parla proprio, perché richiama sostanzialmente quelle minori quorum deliberativo che era previsto già nella norma e lo porta nella norma delle barriere, l'eliminazione delle barriere architettoniche, e la porta nel contesto della riforma generale. È una riforma che prevede, si aspetta ancora l'approvazione della Camera, quindi dovremmo usare il condizionale, però, che il singolo condomino ha la facoltà di staccarsi dall'impianto di riscaldamento centralizzato se l'operazione non comporta oneri aggiuntivi per il resto del condominio, caso in cui dovrà partecipare alle spese di manutenzione dell'impianto centralizzato. Quindi una facilitazione anche per chi vuole staccarsi dall'impianto centralizzato. Credo abbia una domanda di questo tipo Claudio da Milano. Pronto? Buongiorno e grazie per il collegamento. Grazie a lei. Senta, io abito in un condominio dove attualmente esiste un impianto centralizzato. Dovendo fare dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, vorrei realizzare un impianto autonomo. La mia domanda è: posso realizzarlo? Come devo notificarlo all'amministratore questo cambiamento, se è a mezzo raccomandata tradizionale? E a quali quote o a quali spese vado incontro nel momento in cui mi distacco dall'impianto centralizzato? Domanda articolata, chiediamolo all'avvocato Correale, rappresentante degli amministratori. Risposta articolata, perché per il presente direi che le situazioni sono abbastanza semplici. In linea generale è consentito il distacco purché non vi sia un divieto nei regolamenti contrattuali, e il distacco comporta 2 conseguenze: che si dia la prova che non si squilibra l'impianto e che si continuano a pagare i costi che ugualmente il condominio registrerebbe, per cui chi si distacca sostanzialmente usufruisce del risparmio della spesa del gasolio oppure di un risparmio nelle spese per le manutenzioni straordinarie. Ecco, paradossalmente la riforma che dovrebbe agevolare queste operazioni finisce per imporre delle limitazioni. Senza appesantire molto le mie osservazioni, dico appena questo: mentre per ora chi si distacca deve semplicemente pagare le spese di prima, ma fa proprio tutto il risparmio, in futuro comunque il rinunziante resterà tenuto a concorrere nelle spese di manutenzione straordinaria e nelle spese per la conservazione e messa a norma dell'impianto. Quindi pagherà di più? E finirà, è una normativa che probabilmente non è stata scritta da un ingegnere, ed è anche giusto che la normativa non sia scritta da un ingegnere, però il giurista finisce per non andare a cogliere le specificità, le tecnicità, le peculiarità di quella situazione, e quindi per determinare delle conseguenze magari forse non sono esattamente quelle che si sarebbero volute. Va bene, così abbiamo risposto anche a Daniele da Genova, che ci chiedeva cosa cambierà nelle procedure di richiesta di distacco con la nuova legge. Rispondiamo anche a Marco da Padova, sempre al 349-238-6666, una domanda sempre per lei, avvocato Correale. Siamo in un condominio di 13 unità con amministratore interno senza consenso. Siamo in regola? Se non riceve il consenso si deve iscrivere all'albo? Non è previsto un albo, per cui non si deve certamente scrivere un albo. Per ora può tranquillamente esercitare la professione dell'amministratore chiunque e può essere nominato chiunque. In futuro chi esercita la professione d'amministratore dovrà essere iscritto ad un registro e non potrà fare l'amministratore colui che l'abbia esercitata abusivamente e colui che sia in corso in alcune violazioni di carattere penale. Quindi questo possiamo dirlo con certezza, questo, che passerà anche alla Camera questo registro? Abbastanza probabile, ecco. Diciamo che il vero problema è un altro, è dato dal fatto che una normativa molto lunga ha conosciuto un attimo di fortuna ed è stata approvata dalla Camera, dal Senato, anche grazie alle nostre odierne vicende politiche. Se però ci sarà un cambiamento di testo alla Camera, poi occorre che torni ancora indietro e allora lo zigzag inizia ad essere un po' pesante, ecco. Allora, 800 24 00 24, numero gratuito per le vostre domande. Gli sms arrivano al 349 238 6666. Dalla provincia di Milano ci chiama Mario. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Grazie per l'intervento. Io desidero fare una domanda al portiere. Il presidente stava parlando degli amministratori. Abbiamo l'avvocato Correale e l'avvocato Cirla, amministratori e condomini da una parte e amministratori dall'altra, dica. La mia domanda è questa: io abito in un residence di 6 palazzine di 140 abitazioni circa, abbiamo un amministratore che è un commercialista e il nostro complesso è privo di certificato di abitazione, va bene? Per cui io da di abitabilità? Anni, prego? Certificato di abitabilità? Sì, certificato di abitabilità e di idoneità per quanto riguarda le parti comuni. Allora il costruttore, il presidente della cooperativa non si è occupato di chiedere questa certificazione al comune. Adesso, con il passare del tempo, io ho scoperto, appena acquistato questo appartamento, appunto, che era privo di questa carenza. Quindi la sua domanda è? E io, mi scusi un attimo, io ho fatto, raccomandato all'amministratore, ho fatto mettere in assemblea per iscritto questa mia richiesta, più volte, e se ne fregano tutti, compreso l'amministratore. Sì. La mia domanda è: una, come posso obbligare l'amministratore a provvedere in tal senso? Due, se dovesse succedere qualche danno atmosferico, sismico, certo, eccetera, di che la responsabilità, va bene. Avvocato Correale, una risposta più breve della domanda se possibile. E se la mancanza è solo cartacea, cioè si tratta semplicemente della mancanza del certificato di agibilità, oggi così si chiama, e la questione potrebbe pure essere risolta con un semplice intervento da parte dell'amministratore che sollecita. Se invece mancano nella sostanza delle cose delle cautele, l'edificio non è stato realizzato bene, gli impianti non sono regolari, allora il problema è dell'assemblea che deve prima di tutto disporre gli interventi. Quindi va vista la ragione. Di per sé in Italia che manchi un certificato di agibilità è brutto dirlo, ma non è tanto un'eccezione, perché molte volte sono i nostri comuni che non vi provvedono con la dovuta celerità. Sì, succedesse qualcosa, responsabilità? Se succede qualcosa puramente semplicemente perché manca la carta, non c'è problema. Uh-huh. Se invece non vi sono delle cautele, gli impianti non sono regolari, l'amministratore ha il dovere di accorgersene e l'assemblea ha il dovere di provvedere alle opere. Va bene, allora c'è la viabilità e torniamo subito dopo con l'ultima parte di Salvadanaio. Di nuovo insieme a Salva Danaio con l'avvocato Eugenio Correale, capo ufficio studi della NACI, e l'avvocato Augusto Cirla, segretario nazionale di Assocond con AFI, e in vostra compagnia. Katia da Roma ci ha raggiunto all'800 24 00 24. Stiamo parlando di condominio, nella fattispecie oggi della riforma di condominio che aspetta il sì dalla Camera. Katia, buongiorno. Ah, buongiorno, volevo porre un quesito. Stanno nascendo nuove forme di persone giuridiche che si occupano di amministrazioni condominiali, tipo SRL. In questo caso come deve comportarsi? Cioè, il condominio può nominare una società SRL che si occupa di amministrazioni condominiali? E come funziona il meccanismo? Grazie. Grazie a lei, Eugenio Correale. Esattamente sì, ma non occorre aspettare la riforma, la giurisprudenza l'ha riconosciuto ormai da 6-7 anni e molte volte ormai gli studi di amministratori sono organizzati sotto forma societaria. Addirittura i giudici hanno affermato un qualcosa che mi trovo assolutamente d'accordo, cioè che la forma societaria consente al professionista di avere più competenze. All'interno di una società ci può essere la competenza legale, la competenza giuridica, la competenza tecnica. In poche parole, lo si può già fare. In futuro è previsto che la società debba dare delle indicazioni più precise relativamente alla sede arresto, e poi torniamo al discorso della polizza d'assicurazione che certamente copre quelle perplessità che si hanno quando si nomina non una persona fisica che abbia un suo patrimonio, ma una persona giuridica che magari non ha una consistenza patrimoniale. Quindi la riforma potrebbe coprire anche certe perplessità che oggi oggettivamente si pongono. Un messaggio ci porta a Treviso. Gianni ci scrive: come fare nel caso di condomini con meno di 4 condomini dove non c'è accordo sulle spese? Si diceva che in caso di meno di 4 condomini non sia necessario l'amministratore, avvocato Cirra, però se i condomini poi non si mettono d'accordo? No, beh, teniamo presente che è comunque data possibilità ai partecipanti al condominio di, nel caso non si mettano d'accordo, di ricorrere in volontaria giurisdizione al giudice affinché nomini un amministratore che provveda poi a ripartire tra di loro tutte le spese e a addirittura fare quegli interventi necessari per la manutenzione del bene comune. Quindi il fatto che la legge imponga la presenza dell'amministratore per più di 4 condomini, ovvio che non è che è vietato non averlo se sono meno di 4, se non c'è, in caso di disaccordo interviene il giudice e nomina un amministratore di sua sponte. Parliamo anche di condomini morosi, perché il testo approvato dal Senato prevede nei loro confronti in qualche modo più potere da parte dell'amministratore. Sì, non è diciamo un rimedio al fenomeno morosità nei condomini, perché è dilagante. Ci fosse. La riforma in realtà pone un obbligo ben preciso all'amministratore di agire per il recupero del credito del condominio nel termine di 4 mesi. Cosa vuol dire questo? Chiariamolo subito: non è che l'amministratore entro 4 mesi deve assolutamente recuperare la morosità, perché sarebbe veramente un'utopia. Deve agire. Quindi come si tradurrà l'operato dell'amministratore, questa norma sull'attività dell'amministratore? Che ovviamente dovrà sollecitare il condomino e in questo termine dare l'incarico ad un legale affinché proceda subito al recupero. Se non lo fa, l'amministratore è passibile di risarcimento del danno. In cosa consiste questo risarcimento del danno? È chiaro che non tanto nella somma che il condomino non ha pagato, quindi che deve pagarla lui, ma nel danno che potrebbe essere ad esempio quello che nelle more di questa attesa dell'amministratore il debitore, quindi il condomino, disperda tutte le sue garanzie, quindi tradotto in termini molto più poveri, che magari in questi tempi venda l'immobile dove abita e quindi il condominio rimane sprovvisto poi di garanzie per recuperare il proprio credito. Lucia da Milano, deve essere velocissima, buongiorno. Sì, buongiorno. Più che veloce. Il primo è: uno, che misura dobbiamo aspettarci, che misura percentuale aumenterà la parcella dell'amministratore? E la seconda domanda è... Senta, le faccio la prima perché non ho più tempo. Avvocato Correale. Non dovrebbe aumentare, gli amministratori sono molte volte iscritti ad associazioni e le garanzie che potranno offrire sotto forma di fondo di garanzia o anche di polizza di assicurazione certamente saranno disciplinate da associazioni che si occuperanno di 8.000 iscritti e quindi, come dire, distribuiranno molto bene i costi che dovrebbero non essere ingenti. Vittorio Fusco di Enapi, è d'accordo anche lei? Sì, assolutamente sì. Quindi non aumenteranno i costi dell'amministratore, perché molti ascoltatori hanno dei dubbi in materia, ci arrivano messaggi su questo, Augusto Cirla? È il mercato che farà poi, detterà le regole, insomma, il buon amministratore va pagato nel giusto, ma non ritengo che questa nuova riforma vada a influire sul compenso dell'amministratore. Benissimo, allora grazie a Vittorio Fusco di Enapi di essere stato con noi, all'avvocato Correale di Anaci e all'avvocato Augusto Cirla di Assocond Conapi. Beh, purtroppo si conclude qui lo spazio a nostra disposizione, però prima di salutarci come di consueto spazio alla nostra rubrica sulle pensioni. INPS, per saperne di più. Continuiamo a proporvi in collaborazione con l'INPS pillole quotidiane per spiegare o chiarire le parole della previdenza e il concetto di oggi è rinnovo delle pensioni. L'INPS ha completato le operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per l'anno 2011. In via previsionale, l'aumento della perequazione automatica da attribuire alle pensioni per l'anno in corso è stato fissato nella misura dell'1,4% dal decreto emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali il 19 novembre 2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 279 del 29 novembre 2010. Come di consueto, ad ogni pensionato è stato inviato un plico contenente il certificato di pensione, modello OBISM. Sul modello sono riportate le informazioni relative alla tipologia di pensione erogata, la perequazione attributiva in via previsionale per l'anno 2011, la tassazione mensile applicata, i familiari per i quali viene attribuita la detrazione, l'importo delle addizionali regionale e comunale, gli eventuali benefici accessori alla prestazione. Ed è davvero tutto per oggi, grazie a Gaia Romana in redazione, a Filippo Reggi in regia, a voi per l'ascolto. Salvadanaio torna domani alla stessa ora, vi lascio in compagnia di GR24, una buona giornata da Roberta Pellegatta.